disegno di Calderoli, è difficile distinguere qual è la cosa principale. È stato definito Spacca Italia, costituisce l'avvio della distruzione dell'unità d'Italia sul versante della produzione legislativa, cioè avremo praticamente la penisola italiana ceduta all'autonomia legislativa, ceduta all'autarchia e all'autonomia delle singole regioni, cioè salta completamente l'unità nazionale, dentro la quale saltano le possibilità per i lavoratori, per il mondo del lavoro, di evitare che tornino gabbie salariali, gabbie dei diritti, privatizzazioni, salta tutto in sostanza. Le materie che saranno oggetto di autonomia, quelle diciamo più preoccupanti, quali sono? Ma guardi, per quanto mi riguarda, intanto il disegno Calderoli prevede che tutte e 23 le materie ipotizzabili come oggetto di richiesta di autonomia dall'articolo 116, comma terzo, vengano considerate devolubili. E addirittura, cosa che viene sottaciuta, prevede che le trattative tra le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e il governo vadano avanti sulle basi dei progetti che le tre regioni hanno già presentato. In sostanza, una volta che il Veneto abbia chiesto 23 materie, è chiaro che tutte le altre regioni saranno costrette a misurarsi con le richieste del Veneto, quindi nessuna materia è stata esclusa. La più grave in assoluto è l'istruzione, perché come tutti sappiamo l'unità della nazione si basa soprattutto sulla possibilità di godere tutti insieme di una cultura specifica che ha costruito la lingua italiana. L'unità della cultura è l'unità della nazione, è la prima cosa. Se noi distruggiamo la scuola, distruggiamo la possibilità di avere una cultura unitaria. Dentro a questo avremo naturalmente la rottura della unitarietà dei contratti di insegnamento, dei programmi, una situazione attualmente disastrosa. Per quanto riguarda la sanità, purtroppo la sanità è già stata autonomizzata dappertutto, addirittura in Lombardia abbiamo la situazione incostituzionale che prevede che il pubblico e il privato siano equiparati nell'assolvimento della funzione assistenziale, in contraddizione con la legge 833 e anche con la carta costituzionale, andando a definire le cose. Quindi diciamo, per la sanità, invece di fare un piccolo passo indietro rispetto a un'eccessiva frammentazione in 21 sistemi sanitari diversi, si fa un ulteriore passo in avanti, cioè praticamente si calpesta l'esperienza drammatica del Covid-19, ma sostanzialmente anche di quello che stiamo vivendo in questi giorni, e cioè l'allungamento delle liste d'attesa, lo strangolamento della sanità pubblica. Tutte e tre le regioni chiedono di espandere il settore delle assicurazioni private. Queste sono due cose drammatiche. Certo. Ma non c'è dubbio che tutta quella ambientale, quella legata alle reti di distribuzione dell'energia, sono assolutamente gravi anch'esse, oltre che paradossali. Insomma, è chiaro che la questione ambientale non riconosce i confini regionali, ma io direi addirittura quella che sembra meno impattante, addirittura l'amministrazione della giustizia di pace crea i presupposti per dividere i cittadini in base al luogo di nascita. Particolarmente curiosa è la posizione di Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, che è una delle tre regioni che ha chiesto al governo questa autonomia differenziata, e però invece ieri insomma ha bocciato completamente il disegno Calderoli. Come commentare questa posizione? Ma ci sono due aspetti. Il primo è che lui ha bocciato il disegno Calderoli, non ha bocciato l'autonomia regionale differenziata. In realtà lui ritiene di essere depositario di una forma di autonomia regionale differenziata più avanzata, la quale ha l'ardire di definire, non come peraltro anche Calderoli, non in contrasto con l'unità nazionale, non in contrasto con la solidarietà tra cittadini e funzionale al migliore gestione delle attività amministrative della regione, cose che sono sostanzialmente ipocrisie fatte per favorire comunque l'attuazione di un'autonomia regionale differenziata. Qui bisogna abbastanza capirsi. La nostra Costituzione, la nostra ragion d'essere, prevede come dimensione autonomizzabile le questioni sostanzialmente legate all'amministrazione comunale, alle cosiddette autonomie locali. Per quanto riguarda le regioni, esse fanno parte di un sistema di governance totalmente unitario. La funzione legislativa deve appartenere al Parlamento e la funzione amministrativa delle leggi applicate dal Parlamento, che è opportuno sia decentrata e sottoposta al controllo popolare. Qui invece concediamo alle regioni di farsi ciascuna le sue leggi, e questo è devastante. Già solo questo è un grave problema, perché si propaganda un sentimento dire divisivo tra, nell'opinione pubblica. Se qualcuno andasse a leggere la proposta avanzata da Bonaccini, in tutte le sue 15 materie, compresa sanità e scuola, inserisce politiche di espansione dell'iniziativa privata. E poi io e la mia associazione e altri oltre 3.000 cittadini e una trentina di associazioni abbiamo già chiesto a Bonaccini di fare una cosa molto semplice: ritiri la domanda di autonomia regionale differenziata, visto che il decreto Calderoli e il decreto quindi del governo Meloni, Salvini, Berlusconi si è messo sulla strada di distruggere l'unità d'Italia. Lui, per differenziarsi, ritiri quella domanda che imprudentemente e impunemente ha avanzato nel 2018 col sostegno di tutti. Io faccio un appello: uniamoci in Emilia Romagna perché si ritiri indietro quel progetto, perché altrimenti sarebbe di fatto ratificato dalle procedure del governo Meloni. Questo è il modo per differenziarsi, altri modi io non ne vedo. E poi si apre un grande dibattito serio, però, perché non si spacci per capacità di programmare le risorse regionali l'iniziativa, per esempio, in sanità, di dare spazio ai fondi assicurativi regionali. Cioè basta questo doppio gioco che si continua a fare da parte del PD.